qui finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. È solo chiacchiere distintivo, perdonateci un attimo qualche problema tecnico proprio a inizio trasmissione, quando tutto sembrava ormai a posto. Va bene, 22:59 minuti primi, le frequenze, gli 87.9 della banda romana e laziale. Aspetta un attimo. Va bene, vabbè, insomma, ce l'abbiamo fatta alla fine. 25 o'clock anche questo 3 di marzo 2021 va ad inanellarsi nel palinsesto di Radio Onda Rossa. Lo dicevamo poc'anzi, le frequenze sono gli 87.9 della banda romana e laziale da molti molti anni. Dal 1977 Radio Onda Rossa vive libero, autonomo, indipendente, grazie al contributo di tutte e tutti voi che la sostenete in vari modi, varie maniere. Chi ha partecipato alla vita della radio, chi ha suonato, cantato, recitato per la radio stessa, chi ha tirato fuori i soldi dal portafoglio, chi ha partecipato alle riffe, chi è andato alle iniziative di sottoscrizione, chi ha fatto il radioabbonamento, chi è venuto in radio e ha lasciato il 50 euro o la 50.000 lire. Magari un po' più di anni fa, insomma, questo è il modo con cui Radio Onda Rossa ha vissuto in tutti questi anni e fate in maniera tale che continui a vivere. E perciò vi ricordo il numero del conto corrente postale di Radio Onda Rossa 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 5600185, Roma, San Lollo. Il sito della radio è www.ondarossa.info, ci trovate cliccando su Sostieni, una paginetta che vi illustra come è possibile sostenere economicamente questa radio. Ma il sito della radio è anche pieno di link utili, dei podcast, dei redazionali, delle corrispondenze, delle trasmissioni salienti che la radio, oltre che in onda, archivia anche sul sito della radio stessa, così che voi possiate andare a riascoltare quello che vi siete persi o quello che vi interessa di più riascoltare. Per comunicare con questa emittente, oltre ai canali social, oibo, ci tocca dire anche questo, c'è una vecchia tecnologia che è quella della posta elettronica, oltre che quella di venire appunto a Via dei Volsci 56 in San Lorenzo. La casella di posta elettronica della redazione della radio, che è ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni. Lo alziamo un pochino il microfono, così la voce risulta ancora più squillante. Se volete invece mandare magari qualche audio al sottoscritto, che ne farà l'uso più appropriato, sottoponete le vostre proposte 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritto a numero 25 o'clock@ondarossa.info, 06 491750, recapito della radio, che però in questo momento non troverà nessuno a rispondervi, o non troverà almeno il sottoscritto a rispondervi, in quanto la trasmissione va in onda da remoto, come da lockdown a questa parte, o quasi sempre, dai. Speriamo di ritornare presto negli studi della radio, anche perché qui la faccenda si fa complicata e la tecnologia non ci è così fedele e affidabile, amica. Si inizia così. Hey now, everybody crowd round, something you should know. Fast break, always a mistake when you got nowhere to go. You can lie for the honey, lie for the wealth. You can lie to each other, but you better never lie to yourself. No sign of any second mind, what she had she gave nothing. If you run, you better have a place to go. If you run, quello che possiamo dire è che oggi non ha dato problemi la connessione, mai, vabbè. If You Run, The Secession feat Libby Grace. As you're running through the moonlight, waiting on her charms, deep scars fading in the stars, fading in each other's arms. He took her down to his hiding place, all he's bringing back is dust on his face. Stone throw, tapping at the window, fools with no plans. Slow wine, broken by design, be goddamn. You think you left it all behind? You're choking on behind you. New age, burning of a page, a brand new dream to sail. Ain't far from who you really are, and it's just as well. You laugh for the honey, you laugh for the wealth. You lie to each other, ain't gonna lie to myself. If you run, if you run, if you run, you gotta have a place to go. Vabbè, quello che possiamo promettere è che al solito poi il podcast lo faremo meglio, eh? Andremo a fare opera di taglio e cuci. Vabbè, comunque si inizia così con un ormai un classicone da qualche tempo a questa parte, con l'ultima uscita 2020 per 20. Abbiamo parlato molto e non siamo andati in onda, perciò ripetiamo brevemente quello che dicevamo. Abbiamo ascoltato Battles attraverso la voce di Xenia Rubinos. Lavoro questo del 2019 per i Battles, che si chiamava Juice and Crips. E che questa sonorità e queste sonorità ci servono pian pianino per scendere verso le produzioni di autoproduzioni di Velester e Soci in questa circostanza, che ci suggeriscono un po' l'andamento poi della trasmissione e della scaletta che andiamo a produrre. Ovviamente sono delle autoproduzioni a lo-fi, diciamo, a basso livello di fedeltà, che noi andiamo a manipolare. Mentre ascoltiamo Ravi Caribou, lavoro di inizio 2020, che si chiamava Suddenly. E appunto questa è l'undicima traccia, che si chiama Ravi, la ascoltiamo da capo, Onda Rossa 25 O'Clock. We'll be right back. hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Insomma, avete capito da che parte stiamo andando questa sera? E quindi dopo Fortet, Cool FM, Fortet, che è lo pseudonimo dietro cui si nasconde Clairan Ebeden o Ebeden. Da padre inglese e madre indiana. Ed è un ottimo esempio di come la contaminazione a tutti gli effetti produce buoni risultati. Warrior Dance, Future Funk Squad, Rain Soldier Mix, The Prodigy. We'll be right back. ci voleva un po' di breakbeat. A tarda sera, notte, dalle frequenze di Radio Onda Rossa, Dave Clark Remix, Redox, Fatboy Slim. Tutti i suoni che ascoltate a 25 o'clock provengono da supporti fisici, ovviamente manipolati nel caso in cui si trasmetta da remoto, almeno di quelle che sono le produzioni ufficiali. Redux are freaky in me. No. I'm familiar with the custom of this traditionally. Genetic Blueprint, New Bread, Fit Factory, ancora una manipolazione, ancora un remix. 87.9 della banda romana laziale, www.ondarossa.info per lo streaming. We'll be right back.

Va bene. È pericoloso, signore. Lo so. Va. Non sono uno sciocco, Bliskin. Chiamami Iena. S.D. Bliskin. Americano, tenente. Unità speciale di combattimento Luce Nera. Due decorazioni a Leningrado in Siberia. Il più giovane ufficiale decorato dal presidente. Rapina alla sede della Banca Federale, ergastolo da scontare nei penitenziari di massima sicurezza di New York. Sono pronto a toglierti dal mondo a calci in culo, decorato. Chi sei tu? Haup, altro commissario. Bob Haup. Unità speciale di combattimento tuono. Anche noi ti conoscevamo. Che parliamo a fare? Ho un affare per te. Ti sarà perdonata ogni azione criminale che hai commesso negli Stati Uniti. C'è stato un incidente. Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente. Presidente di che? Questa non è spiritosa. Tu entri là. Trovi il presidente, lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero. 24 ore, eh? Ti sta facendo un'offerta. Balle. Attendibile e onesta. Ci voglio pensare. Non c'è tempo. La risposta. Fate un nuovo presidente. Siamo ancora in guerra, Bliskin. Ci occorre vivo. Non mi importa un cazzo della vostra guerra. O del presidente. È questa la risposta? Ci sto riflettendo. Rifletti bene. Perché io? Volasti col Galfai a Leningrado. Sai calarti su una città. Inosservato. Visto che andrò là in un modo o nell'altro. Non mi frega come, dammi quel perdono. Quando ritorni? No, prima. Ripeto, non sono uno sciocco, Bliskin. Chiamami Iena. Sono uno sciocco, Bliskin. Chiamami Iena. Chiamami Iena. Chiamami Iena. votate un nuovo presidente. Fate un nuovo presidente. Fate un nuovo presidente. Fate un nuovo presidente. Non mi importa un cazzo della vostra guerra. Non mi importa un cazzo della vostra guerra. Non mi importa un cazzo della vostra guerra. Non mi importa un cazzo della vostra guerra. Non mi importa un cazzo della vostra guerra. Non mi importa un cazzo della vostra guerra. Qualcuno di loro ha la macchina, vecchi 14 convertiti da... Qualcuno di loro ha la macchina, vecchi 14 convertiti a vapore. Pare abbiano anche qualche riserva di benzina e un po' di elettricità. Per le serre, usano generatori da bracciale. Qualche zona ancora i lampioni. E poi ci sono i pazzi, che vivono nella sopravvivenza. Hanno il controllo assoluto del sottosuolo. Predatori. Tracciatore. Aspetta ora, segnale. Se lo premi, sul grano. È lo stesso che con l'aggiunta di qualche rifinitura. Qualcuno di loro ha la macchina, vecchi 14 convertiti a vapore. Pare abbiano anche qualche riserva di benzina e un po' di elettricità. Per le serre usano generatori raffreddati. Qualche zona ancora i lampioni. E poi ci sono i pazzi, che vivono nella sotterranea. Hanno il controllo assoluto del sottosuolo. Trasmettono la segnale alla PCB. Se lo prego, mi tengo sul grano. È lo stesso che viene di me. Con l'aggiunta di qualche rifinitura. Presidente di che? Presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente di che? Presidente di che? Presidente di che? Se mi toccate muore. Se non sparite entro 30 secondi muore. Se ritornerete muore. Se mi toccate muore. Se non sparite entro 30 secondi muore. Se ritornerete muore. Se mi toccate muore. Se non sparite entro 30 secondi muore. Se ritornerete muore. Se mi toccate muore. Se non sparite entro 30 secondi muore. Se ritornerete muore. Se mi toccate muore. Se non sparite entro 30. Che cos'è stato? Tsunami, iena tsunami! Yuhu! Si fa il surf sul serio qui! Cerca di sentirti meglio il più presto perché non avrai il tempo di andartene. Sarà una cavalcata di quelli col botto, una cavalcata da sballo. Andiamo, muoviti! Yuhu! Da sballo! Da sballo, amico! Ok, lasciati prendere dal fronte dell'onda. Non metterti in piedi finché non sarai in cima all'onda. E soprattutto non sbagliare. Se cadi dalla tavola puoi dire addio a questo mondo, hai capito? Yuhu! Che bello! Reggi forte, Iena! Yuhu! Non è possibile, è un miraggio! Ci vediamo! Ciao, Iena! Arrivo da te, ragazzi, scelte. considerably altered form, the RNA factor, the basic ingredient in the genes and chromosomes which contain and transmit hereditary characteristics. Quindi ritorniamo in onda sugli 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Dopo Velester, nella versione Magnat Session, Magnat Session, quindi si allargano i contributi alle manipolazioni notturne di 25 O'Clock. Ovviamente con 1997 Fuga da New York e poi Fuga da Los Angeles, sempre di Carpenter. La scena della Big One, dello tsunami che arriva e dell'onda che attraversa la città. Poi arriva la bomba, i Mitomani Beat, Plutonium Baby, Dexter and Deborah Morgan. E questa la illeggibile traccia di Mare on Astroman, registrato e prodotto da Steve Albini per la band californiana trasferita in quel di Chicago. Carious Constructs of Steam Like Device Which New Prepare Themselves, eccetera eccetera eccetera, veramente un titolo Albert Mueller. Per questa surfata psicotica hard fried. Ain't nothing easy on this frickin' free ride. I am on a free ride. I'll be gone with every tide. I don't need no pride. Not with me on this free ride. Oh, hey, I got nothing inside. Not another last I sighed. Weep for the weeper, I cried. I creep like a creeper on my freaking free ride. I am on a free ride. And although I be fit to be tied, and I don't need your pride. Not with me on this free ride. I've been sailing on the Bounty. I've seen Captain Bly crossing into the county. Sorry again, I just lied. I would've flown in if I could've flied. But I'm just blown by the winds of my free ride. I am on a free ride. I'd be gone with every tide. And you don't need no kind of pride. Not with me on this free ride. Not if you're with me on my free ride. Fuori dal centro, Radio Onda Rossa, scarcerando. Se è vero che il vero supporta il vero, questo è il momento di farlo davvero. Il pugno è sempre al cielo, sulla traccia sempre il cuore che comanda. La mia banda supporta scarcerando. Sei qua chi me lo manda, chi tipo c'è ormai è privo. Io per primo ti rimbombo la mia in testa come un grido. No, fra che non ride in questa vita. Contro il carcere ogni giorno, perché non ci si muoia né ci si viva. Ah, fuori d'argento, per scarceranda. Peace. Well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and calls me away. Oh, yes, with the morning so bright, and the lamp is alight, and the night is as black. dai, ci avviciniamo verso la conclusione. Ci aiutano Screaming Trees. Con la loro Daryl Bell, Peace in the Valley for me. Adesso ESC. Questo un po' per ricordare chi siamo, da dove veniamo, che cosa facciamo, dove andremo a finire, boh, non si sa. ...87.9 della modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, questa è la notte del mercoledì barra giovedì, questa è Eagle Birds... The Black Keys 2019. Let's rock. turn along the way. Lies, telling lies, hypnotized, disguising things you say. Tell me lies, tell me all your pretty lies. Tell me lies, la la la. Vabbè dai, ci ha fatto quasi finire la trasmissione, La strega delle connessioni, il folletto di internet. Dicevamo, il nostro saluto più importante va a tutti coloro che sono costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, centri di detenzione per migranti. A chi cerca di varcare le frontiere. Chi cerca di ritornare a casa. Le programmazioni della radio, dicevamo, in diretta finiscono qui, lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata. Si riprende domattina in diretta con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. I redazionali del giovedì alle 14 si riprende con tutta scena cinema, poi alle 16 Attica Blues oltre al Black Music, alle 17 Le Schiene del Soul, alle 18 il Mezzedes, i redazionali del giovedì della radio, alle 20 Tabula Rasa e alle 23 chissà se li avremo ancora fra noi. I cuginetti d'apostasia, bella a tutti e a tutte, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai! Do all my mind. share our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.